Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, allora questo è l'inizio del Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì. Abbiamo appena anche ascoltato la sigla di apertura. Oggi, per chi dovesse riascoltarci nel blog di questa trasmissione, che è zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ricordiamo che oggi è il 18 gennaio, potrebbe anche pure capitare che qualcuno ci ascolti in replica, così a come capita durante le giornate, sempre nelle varie così messe in onda di Radio Onde Furlane. Comunque non mi vado a perdere, comunque trasmettiamo da Udine. E ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Udine, di Friuli e Trieste, E andiamo ora all'ascolto di questa band friulana degli anni 90. Loro erano gli Inzirli, erano di Udine e limitrofi. Da un loro 7 pollici uscito nel 1995, anzi il loro unico EP, autoprodotto da loro stessi, conosciuto come Amor o Venkul, ma perché il titolo, il primo titolo, il primo brano di questo, del lato A, ma in realtà si chiama Inzirli semplicemente. E andiamo comunque all'ascolto di questa band. Sì, buonasera a tutte e a tutti voi che siete in ascolto. Come già stato detto, per questa puntata di Zardins Magnetics di oggi, che è giovedì, come tutti i giovedì sera, è il 18 gennaio. Allora, sommario, diciamo, di questa puntata sarà fatto da tre blocchi, ma scusate, allora, punto primo, le cuffie, ho dovuto cercarle perché era con lo spinotto che ballava. Secondo, adesso si sente bene perché ho girato il microfono di questo studio. Quindi, dicevo, tre blocchi. Primo blocco, chiamiamolo così, dove vi andremo così a presentare un articolo sul modello, diciamo, solito modello, insomma, di cui abbiamo già parlato tre volte, un test chiamato GASA, il numero 3 dal fronte umano, che è una specie di collana, ecco, non so come definirlo, periodico, ecco, digitale del collettivo Terra e Libertà. Secondo blocco, andremo a vedere così un po' la tematica degli incendi, una prospettiva libertaria tratto da un approfondimento sull'ultimo numero della rivista Nunatak. Ultimo blocco, faremo un po' la presentazione, la propaganda e l'invito a partecipare al saluto solidale al Tribunale di Trieste al compagno anarchico prigioniero Stecco. And as we build mountains, and as we build mountains. Jardins Magnetics, sempre in diretta dagli studi di Via Volturno, Udine. Un saluto a tutti quelli e quelle che ci stanno ascoltando da situazioni di reclusione, che siano essi dentro le mura di una galera o ai domiciliari o internamenti vari. Davvero un caloroso saluto a voi. Quindi dicevamo, questa... E, articolo di stasera che abbiamo scelto, un test chiamato Gaza dal fronte umano numero 3, lo trovate appunto sul blog Terra e Collettivo Terra e Libertà. Io credo che la parola chiave di questo intervento sia sia variante umana, ma variante è il soggetto, umana diciamo è l'oggetto, ma nel senso, cosa intendo? Che la guerra dichiarata, che sia agli oppressi, che sia alla natura, che sia appunto a chi lotta, quindi alle variabili appunto conflittuali, quelli che non si adeguano al dettato, appunto agli ordini, al quello che è la normalizzazione appunto di questo esteso sistema di dominio e di profitto, messa a profitto delle vite, è una guerra appunto, è un intero apparato che è anche appunto potenza di guerra alla variabile umana, cioè tutto quello che è imprevedibile, unico, improgrammabile e che decide realmente del suo destino, e quindi è senza destino in quel senso, no? Necessariamente. Cosa succede? Che questo grande movimento internazionale contro la guerra genocidiaria degli israeliani a Gaza sta mostrando appunto, secondo gli estensori di questo articolo, sta mostrando la impossibilità di o meglio sta mettendo in discussione la neutralità della ricerca accademica, della ricerca universitaria e specialmente di quella che è appunto il ramo scientifico tecnologico di questa accademia, di queste università, che è completamente asservito a questa potenza di guerra. La parola, anche la potenza, volevo calcare un po' la mano, perché è anche questa una parola chiave, perché ritorna anche poi in quello che è il sistema di intelligenza artificiale di cui abbiamo già accennato nelle puntate precedenti, che sembra appunto Israele abbia messo a punto e che stia mettendo in, cioè che stia lavorando, stia funzionando fin dalle prime settimane di questo massacro, che è il sistema Vangelo, appunto Abbasora. È un sistema sì di difesa, di sorveglianza, e viene così presentato appunto in modo da presentarlo, nel senso anche nella sua dualità, no? Quello che cerca di mettere in luce questo articolo è anche come allo stesso tempo appunto sia condotta una guerra, massacro appunto di genocidio verso i palestinesi, che permetta anche, cioè come una porta girevole, che permetta anche di mettere in luce, cioè di mostrare anche la bravura la raffinatezza, molto, insomma, l'essere progrediti delle tecnologie, quindi di tutte queste aziende che nel campo della difesa, della tecnologia, della nanotecnologia, dell'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, che lavorano appunto e trovano, insomma, cercano anche clienti insomma, forniscono esempio della loro bravura, fra virgolette, in questo campo così di esperienza che è la guerra. Leggo veramente 4 righe. Allora, quello che appunto stiamo muovendo è anche nel campo universitario la protesta contro la guerra, appunto fuori la guerra all'università, uno degli slogan. Il limite di tali importanti iniziative è la consapevolezza, ancora scarsa, sul fatto che l'intero apparato tecnologico è ormai una potenza di guerra, agli oppressi, alla natura, alla variabile umana e conflittuale. Un modo per avanzare nella critica teorica e pratica è quello di cogliere quanto ciò che stati capitalisti di mezzo mondo forniscono allo Stato di Israele torni indietro affinato e testato sul campo, pronto all'uso per le città e le campagne smart in costruzione anche alle nostre latitudini. Io volevo specializzarmi un attimo, soffermarmi su questo discorso di Absora. Allora, Absora è operativo, un sistema di difesa, lo chiamano, e ne avevamo già parlato. Il punto di questo Absora, che appunto è un ricercatore di bersagli, che mettiamo così, insomma, va a vedere nei database tutti i file che sono stati registrati a cura dei servizi controspionaggio israeliani contro Hamas, dove appunto ci sono fotografie, immagini, contatti telefonici di questi membri di Hamas, e produce centinaia di bersagli al giorno. Voi direte: sì, ma sono passati oltre 100 giorni dall'inizio di questo conflitto, saranno esauriti anche, no, gli obiettivi militari, chiamiamoli, gli obiettivi militari, il nemico appunto di Israele sarà, quantitativamente, annientato. Invece no, perché appunto questo macchinario, questo software non ha praticamente limiti di estensione, nel senso che lui, soprattutto, il punto non è appunto un discorso di estensione, ma un discorso di ritmo con il quale questo dispositivo raccomanda potenziali bersagli dentro la striscia di Gaza. È una vera e propria fabbrica di omicidi di massa. Quindi è stata fatta una scelta di fare più danni, è stato messo in secondo piano, così, diciamo, chiamiamolo così, il discorso sulla precisione degli interventi militari. E quindi questo database dei servizi segreti di controspionaggio, ecco, contiene 30-40 mila palestinesi sospetti militanti di Hamas. Absora crea elenchi di individui autorizzati a essere colpiti, quindi essere assassinati, e il livello di quelle che sono le vittime indesiderate è stato volutamente elevato dall'ufficio centrale, diciamo, delle forze di difesa israeliane, e quindi anche se rimane ucciso un bambino di 3 anni, per dire, e 5 altre persone che non c'entrano niente con questo supposto militante, questo non è un problema per Israele. Io direi che ci possiamo fermare anche per una pausa. C'è un bel brano. Stiamo parlando sempre di questo sistema di intelligenza artificiale che si chiama Absora, che in ebraico significa appunto Vangelo, Gospel in inglese, no? Anche qua tentare di inserire appunto discorsi di pseudo-religiosi per legittimare le proprie così condotte. E abbiamo detto che Absora, il primo punto era appunto il primo discorso, la prima questione era appunto come il ritmo, la velocità con il quale questo algoritmo produce i bersagli. Secondo questione è sì, nonostante questo è una grande quantità di dati in un tempo che nessun funzionario del controspionaggio riuscirebbe a elaborare, no? Essendo appunto un software, il discorso della velocità di calcolo. E terza cosa è che questo Absora raccomanda anche i siti da bombardare in tempo reale, quindi è immediatamente efficace, non serve risalire eccetera, insomma, dove si trova questo obiettivo eccetera eccetera. Una nota: anche nelle precedenti crisi, chiamiamole così, nella striscia di Gaza era stato messo in piedi questo sistema, diciamo così, di localizzazione dei bersagli, ma non gestito da un software. E comunque, se vi ricordate, c'era il discorso, come tra l'altro come in ogni questione di intelligenza artificiale, c'è sempre il momento del controllo incrociato, cioè meglio l'essere umano che c'è dietro, insomma, dietro i comandi non può autorizzare la macchina a prendere decisioni, diciamo, esistenziali, ma ha bisogno, insomma, di perché in caso di errore appunto sarebbe, sì, il discorso sarebbe sì, diventerebbe un problema legittimare l'omicidio, e quindi appunto bisognerebbe verificare che la persona è effettivamente un membro di Hamas. E poi c'era anche il discorso del roof knocking, cioè di mandare prima un'esplosione esemplificativa vicino all'obiettivo in modo che possa essere sgomberata, cioè far capire che lì sarebbe arrivato un attacco, sì, un bombardamento aereo, che comunque questa cosa avrebbe richiesto ore di tempo per ogni obiettivo. Questa cosa con la guerra in corso nel 2023-2024 è stata eliminata, e vengono bombardate appunto residenze private, oltre che residenze private anche edifici pubblici, ospedali, scuole, uffici, infrastrutture, grattacieli, e sono stati acquisiti come obiettivi militari. E appunto, dicevo prima, per l'esercito, per la difesa appunto, le forze di difesa israeliane, questi sono obiettivi di potere, Matarot Otzem in ebraico, cioè sono esclusivamente per sancire la potenza dell'esercito e insomma, dello Stato di Israele, quindi per creare pressione psicologica sul, chiamiamo così, sulla società palestinese e obbligarla a tradire insomma tutti i membri di Hamas. Altro dettaglio, questo sistema, questo Absora, non distingue più tra membri di Hamas, alti diciamo, che occupano gerarchie più alte, e quelli che hanno solo ruoli, chiamiamoli così, secondari. Qualsiasi appunto membro viene considerato un obiettivo, un bersaglio dell'esercito. E volevo dire ancora che sì, altra cosa, quindi questa velocità porta al risultato che l'esercito, per la prima volta, insomma, a differenza delle precedenti crisi, è in grado di generare tanti bersagli a un ritmo più veloce di quello con cui li sta consumando. Il discorso che facevo all'inizio, che dovrebbe essere finito, insomma, è finito l'elenco dei, dovrebbe essere un cimitero, insomma, la striscia di Gaza, invece purtroppo questo macchinario, questo demoniaco qui, questo Absora, elabora talmente tanti profili, e soprattutto lo fa perché si basa su delle immagini, su dei contatti telefonici, su delle presenze, così senza appunto, questo è, appunto è l'aberrazione che nessun software sarebbe mai in grado di decidere, a partire da un'immagine fotografica, da un riconoscimento, diciamo, da un contatto sulla sua scheda telefonica, eccetera, se un individuo è o no, diciamo, sì, merita o no di essere ucciso. E quindi appunto dovrebbe spostarsi tutto il discorso, non è un discorso tecnico o tecnologico, ma dovrebbe spostarsi appunto su come l'intero apparato tecnologico è asservito al dominio, agli stati, al dominio, e secondo anche al insomma ritornare delle, spostarsi appunto dalle caratteristiche, dai discorsi sulla tecnica a un discorso politico, a un discorso di appunto di chi sono le responsabilità di queste scelte, appunto di chi si anche nell'ingranaggio di insomma nella catena di comando dell'esercito accetta di essere braccio appunto di queste decisioni, di queste aberrazioni, e lì appunto il vero scandalo non è nel dire aiuto, l'intelligenza artificiale prende sopravvento. Questi sono discorsi così che portano fuori strada, ecco. E si conclude questo articolo molto interessante con anche un panorama su come vengono riconvogliate anche questi dispositivi, questi saperi qua appunto testati in combattimento, vengono reinvestiti, diciamo così, anche nelle innovazioni applicate all'agricoltura, ecco, e di come tutte queste anche spunti hanno dei legami anche con gli istituti di ricerca e con le fondazioni che hanno luogo, che hanno sede in Italia, cioè in Occidente, in Italia e nello specifico nelle istituzioni trentine. Vado io, scusate il momento di defiance. No, allora, prima di un saluto anche da parte mia, prima di passare all'altro argomento, cioè agli incendi nelle Madonie e alla Madonie e alla così alle azioni autogestite, insomma, per in difesa del territorio e contro questi incendi, e volevo, ricollegandomi all'intervento che mi ha preceduta, così dire due parole sull'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, che è questo sito, blog, insomma, è appunto curato da lavoratori e lavoratrici della scuola che hanno a cuore questa lotta contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Allora, diciamo che il collettivo di lavoratrici e lavoratori della scuola che lo mandano avanti è misto, cioè ci sono persone che hanno provenienze, diciamo, anche politiche di diverso tipo. Ciononostante, non è un guazzabuglio, cioè ci sono delle così prese di posizione molto specifiche, molto precise, molto interessanti, anche degli approfondimenti che sono molto utili. Siccome ci si sta avvicinando il giorno della memoria, 27 gennaio, vi segnalo che stanno facendo in questo blog, insomma, tutto un lavoro per affrontare la questione del genocidio del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele e inserirlo in questa, diciamo, affrontarlo anche a livello di scuola proprio in occasione di questa data, cioè che è simbolica ma che comunque ha una forza, diciamo, retorica e istituzionale molto, e ormai è stata anche, diciamo, sì, sempre più svuotata dei significati più generali, politici, insomma, è sempre più mirata così a escludere quasi tutta una serie di soggetti politici che sono stati annientati dal nazifascismo, per concentrarsi solo e unicamente nella Shoah del popolo, e quindi nell'olocausto del popolo ebraico. Allora, siccome la questione è super intricata, e anche su questa questione qua si fa censura continuamente, non si può nemmeno nominare, è vietato nominare, e ci sono tutta una serie di ipocriti, insomma, dell'antifascismo istituzionale, che nemmeno non si può assolutamente nominare la parola genocidio per il popolo palestinese, e non si può assolutamente mettere in discussione lo Stato di Israele. Questo contributo dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università è molto utile. Tra l'altro è orizzontale, nel senso che loro hanno messo in rete tutta una serie di documenti sulla storia del Medio Oriente e anche sul sionismo, con delle parole chiave importanti per dire come esclusività etnocratica e teocratica, portata avanti appunto nella prima nel corso e poi anche insomma nello svolgimento dello Stato di Israele da parte del sionismo, appunto. E dicevo, è orizzontale perché tutti questi materiali che si trovano nel blog non sono per i professori o per i maestri, insomma, non sono per gli insegnanti, sono anche per gli alunni, si rivolgono direttamente agli alunni, agli studenti, cioè a tutti quelli che vogliono e quelle che vogliono appunto uscire da questi discorsi retorici che non si possono più sentire, e vogliono invece approfondire la propria coscienza anche della contemporaneità. E ecco, poi un'altra cosa che ci tenevo a dire: loro fanno una campagna di boicottaggio, ad esempio di HP, dei PC, insomma, sì, del materiale informatico, che è HP è proprio la multinazionale che viene utilizzata nelle scuole, diciamo, i bandi vengono vinti per l'attribuzione di questi dispositivi informatici, vengono vinti regolarmente da HP, e hanno lanciato questa cosa del boicottaggio, che appunto è la tecnologia dell'occupazione, della colonizzazione, dello sterminio del popolo palestinese, tra non è solo HP ma anche HP. Quindi hanno lanciato questa campagna di boicottaggio, e poi hanno fatto anche un'altra cosa interessante, perché hanno, cioè, come chi, insomma, ci si ricorda che erano 12 i docenti universitari che avevano rifiutato di giurare fedeltà a Mussolini, in questo caso in Italia ci sono 12 rettori dell'università che fanno parte dell'associazione culturale MedOr di Leonardo, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, Minniti presidente, tutta una serie di figuri di questa risma, insomma, anche Crosetto con un ruolo attivo, eccetera. E questi buttafuoco, e questi professori, insomma, questi lavoratori e lavoratrici della scuola, non sono solo insegnanti, dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, hanno fatto proprio hanno messo a fuoco appunto questi soggetti, insomma, questi dirigenti, sì, questi, scusate, rettori delle università, dicendo: no, questi qua se ne devono andare fuori Leonardo e l'università. Questi qua sono delegittimati, cioè non hanno nessuna, non devono fare queste cose, e hanno fatto uscire i nomi, appunto. Quindi vi invito ad andare su questo osservatorio per vedere tutti questi documenti molto interessanti. Ancora una parola solamente sul discorso del giorno della memoria. Guarda caso, cosa succede vicino a Firenze, insomma in Toscana? L'Ampi di Bagno di Ripoli, quindi una piccola sezione dell'Ampi, organizza un convegno per il giorno della memoria con insieme a Sopace Palestina, e questo convegno si intitola "Mai più, 80 anni fa, lo sterminio del popolo ebraico da parte dei nazisti, oggi il genocidio del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele". Quindi dà una spinta, insomma, in questo senso, questa piccola sezione dell'AMPI, e viene, si scatena l'inferno, appunto, perché vengono fuori polemiche di tutti i tipi da parte della comunità ebraica di Firenze, dal console onorario Marco Carrai, dall'associazione Amicizia Italia-Israele, te li raccomando, e guarda caso, che strano, l'AMPI provinciale di Firenze prende le distanze dall'iniziativa, per dire come questa faccenda qua della giornata della memoria e della necessità che c'è adesso di uscire, insomma, da questa pesante retorica che non tiene conto dei genocidi di oggi, sia, insomma, un lavoro, una riflessione, un lavoro importante. Tengo in sottofondo questa band, ma prima volevo ricordare che in precedenza abbiamo ascoltato una band californiana, gli Operation Ivy, con due brani, mentre ora stiamo ascoltando questa band italiana di Domodossola. Loro sono i 20 Minutes, questo è il loro album, il primo disco proprio d'esordio, band che si è formata un anno e mezzo fa, il disco è uscito l'anno scorso, e comunque tra loro ci sono dei componenti dei Disertione, che era una band che fece solamente una cassetta, una demo tape negli anni 80. Comunque noi ci ascoltiamo 20 Minutes con questo loro album d'esordio, Crawl. Ed eccoci a parlare di Nunatak, rivista di storie, culture e lotte della montagna, ultimo numero che è il numero 70, appunto autunno 2023. Così, due accenni insomma a questo articolo. Poi la rivista è molto interessante, ha tantissimi contributi anche sull'estrattivismo e poi anche contributi storici sui movimenti pauperistici ed evangelici nell'Italia medievale, insomma sulle proteste contadine, eccetera eccetera. Però c'è questo articolo che a me ha colpito, che si intitola Toccar terra tra le fiamme, e si tratta di appunti libertari su incendi e autonomia dai monti di Sicilia, appunto le Madonie. Scritto da persone che appunto hanno partecipato a queste così movimenti di auto-organizzazione per lo spegnimento degli incendi. E allora l'articolo si riferisce all'agosto 2023. Appunto i compagni che l'hanno scritto si sono preoccupati, cioè non hanno voluto fare solamente una descrizione, diciamo, di quello che è successo, ma appunto si sono posti queste domande, no? Cioè loro si chiedono quali sono le precondizioni dell'auto-organizzazione, perché in alcuni posti è più facile e in altri meno. Che cosa ci insegna l'osservazione di dove gli incendi hanno colpito più duro sul modo in cui viviamo? E si pongono queste domande, diciamo, nel momento subito successivo allo sgomento, alla rabbia, alla paura. Che essere colpiti da incendi così estesi e così pericolosi, insomma, e così distruttivi del territorio pone. E ci dicono ancora, anche questo è interessante, anche rispetto al discorso della messa a profitto di ogni aspetto della vita e di questa disumanizzazione, di questo depotenziamento, diciamo, della variabile umana. Ci è capitato di attraversare in macchina alcuni dei territori interessati dagli incendi subito dopo le grandi giornate dei fuochi, con ancora davanti agli occhi le immagini dei video del fuoco ripreso dai telefonini delle periferie di Messina e Palermo. Questo sguardo veloce ci ha confermato come ci sia una relazione circolare tra la rappresentazione e il fatto della catastrofe. Si può documentare, telefono in mano, la catastrofe proprio perché un'altra, silente quanto letale, si è già compiuta: l'alienazione totale tra umani e l'ambiente sovra-artificializzato in cui vivono le grandi città. Spiegandoci meglio, riprendere da un secondo o terzo piano di un palazzo che si trova a poche decine di metri dal fronte del fuoco è un fatto per nulla banale. Quanta sovrasocializzazione ci vuole per soffocare l'istinto di darsi da fare, magari non da solo o sola, quindi aiutando a spegnere il fuoco, oppure quello che ti dice semplicemente di scappare? Eppure questa condizione passiva non piove certo dal cielo, ha come credo la certezza che qualcuno arriverà per salvarti, mandato dall'amministrazione dell'esistente, e come terreno materiale esistenziale il deserto di relazioni. Quando non ci si saluta nemmeno col vicino di casa, è più difficile mettersi la vita reciprocamente in mano per salvarsi. Ci sembra questa una spiegazione convincente del fatto che l'ombra nera sia tutta intorno alle città di Palermo e Messina. Parlano dell'ombra nera, del fumo nero che nel mese di agosto, appunto, aveva, in conseguenza degli incendi, aveva invaso i territori. Darci questa spiegazione non è per noi di nessun conforto. Miliardi di esseri umani sulla Terra vivono proprio in questa condizione di radicale alienazione che li mette di fatto in pericolo. E allora come si fa a tenere separati il fatto specifico, gli incendi, dalle condizioni socio-esistenziali che rendono quel fatto catastrofico? E poi però ci parlano si parla in questo articolo anche del rovescio della medaglia, diciamo, e cioè dicono non tutto è andato male in realtà. Siracusa è andato bene, cioè c'è stata una reazione popolare che ha permesso, insomma, un controllo dei fuochi, e poi parlano di Polizzi Generosa, con questo bel nome, che è appunto il luogo dove queste compagne e compagni vivono e da cui parlano, insomma, appunto nelle Madonie, e dicono anche qua, ci dicono che, insomma, a fine luglio era arrivata la prima vampata di incendi che aveva colpito alcune case di campagna, in una zona in cui una zona che si sta un po' ripopolando, e lì c'è stato il primo embrione auto-organizzativo, scarsissimo di mezzi, di metodo, però insomma, anche perché c'era lo scirocco, 45 gradi di temperatura da settimane, quindi era un delirio. Però dicono, la gestione e lo spegnimento, tanto in campagna quanto in paese, sono state, a livello di intervento di terra, esclusi quindi Canadair e gli elicotteri, completamente autodeterminati dagli abitanti, soprattutto giovani e giovanissimi. Se in campagna l'auto-organizzazione poteva già contare sull'esperienza pregressa maturata in episodi minori, in paese la paura, la furia e la determinazione popolare hanno dovuto trovare la loro via improvvisando. Qui infatti, e questo, anche questo è importante da sapere, la cecità e idiozia burocratica dei dirigenti delle squadre di pompieri dei forestali aveva prodotto una situazione di non intervento da parte degli uomini. Solo la fortissima determinazione di chi non lo fa per lo stipendio e la coscienza disseppellita del legame con i propri luoghi ha fatto in modo che si evitasse il peggio. Con la forza e le minacce, molti ragazzi hanno strappato le manichette e i mezzi di mano agli impiegati, salvando, non metaforicamente, capre, cavoli e case. Ecco, e quindi insomma c'è stata questa rivolta, diciamo, contro i burocrati dei vigili del fuoco, che appunto non agivano con il personale, insomma, e c'è stata questa autogestione dello spegnimento dei fuochi. E poi, vabbè, raccontano anche di che pian piano si crea, facendo le cose, diciamo, con l'auto-organizzazione e conoscendosi meglio, si creano anche delle strategie preventive, diciamo, delle catastrofi, dei disastri. Quindi qua parlano dell'acquisto di una autopompa che un singolo soggetto, un singolo nucleo familiare o un singolo piccolo gruppo non potrebbe mai acquistare perché costa, però se invece ci si unisce si riesce a farlo, e che quindi, insomma, può mettere al sicuro, e cose di questo tipo. Vabbè, non mi dilungo, perché comunque invito a leggere, tra l'altro, durante le iniziative di strada, ma anche nello spazio autogestito di Via de Roubaix, trovate in un attac anche i numeri pregressi. E niente, torniamo così per dare un po' di, per darci un po' di coraggio, insomma, e anche per così, per introdurre l'argomento che segue, e vediamo che cosa, insomma, che il messaggio un po' che ci danno queste i redattori di questo articolo. È inutile negarlo, la situazione in cui versiamo non è delle migliori. Nel momento in cui scriviamo, altri compagni e compagne vengono posti agli arresti per terrorismo, per avere diffuso tramite un giornale le loro idee anarchiche. La terra continua a bruciare, i diseredati delle guerre e dei colonialismi partono e molti cadono vittime di quei mattatoi chiamati frontiere. Detenuti in sciopero della fame muoiono in un silenzio assordante, mentre tra caserma e scuola le porte non sono mai state così girevoli. Se i nostri nemici avanzano nei loro piani di morte, terrore e obbedienza totale, dal nostro lato della barricata la frantumazione e la desolidarizzazione sono a livelli inimmaginabili. E cosa peggiore, l'acuirsi delle piaghe sociali sembra aumentare l'atomizzazione piuttosto che combatterla. Eppure non tutto è preso in questo vortice, qualcosa resiste, qualcosa in noi resiste, qualcosa che non è solamente noi. è l'urlo soffocato delle foreste bruciate e abbattute per il granaio dell'impero, non tramontato coi romani, e le loro navi da guerra. Sono i lamenti di chi è partito e di chi è stato deportato o fucilato per aver alzato la testa. È la dignità dei pescatori che pescano i vivi, che vengono dalle altre sponde e li aiutano nel silenzio che impone la legge del mare, infischiandosene della legge degli stati. Tutto questo qualcosa ci chiama e ci dà forza. Siamo pochi, sbandati dai venti e dalle maree, ma abbiamo piedi ben piantati e sguardi che sanno andare a fondo. Sanno vedere come la tabula rasa dei romani, che è servita a spezzare le radici di popolazioni bellicose, sanno i militaristi di ogni età che la macchia e il bosco sono amici dei banditi, dei partigiani, delle teste di legno che non si piegano, torna utile anche ora agli estrattivisti dell'energia del sole e del vento. E lo ribadiamo di passaggio, a unire gli sfruttatori di ieri e di oggi potrebbe essere anche l'uso del fuoco come mezzo di persuasione coloniale. Vabbè, è il momento di fare confluire, scusate l'indecisione, non trovavo il segno, è il momento di fare confluire nel nostro sguardo il senso di due parole che la lingua italiana distingue: radicamento e radicalità. È radicandosi che gli alberi puntano al cielo, è puntando il cielo che fanno ombra agli amanti della libertà. Tutta una vita sontuosa e gratuita si sviluppa nel sottobosco, accessibile solo a chi cammina con cuore slegato dall'onnipotenza del visibile. Difendere questa vita significa difendersi e attaccare chi e cosa questa vita la minaccia. Ecco, e questo era insomma l'auspicio di questo articolo, e anche il nostro auspicio di questo articolo che si intitola Toccare terra tra le fiamme. We'll be right back. Ecco, e allora intanto domani presenteremo insomma le iniziative che si svolgeranno domani 19 gennaio a Trieste. E sarà una giornata intera dedicata a Stecco, al nostro compagno Stecco, appunto detenuto nel carcere di Sanremo dal 20 ottobre. Prima era Imperia, poi è stato trasferito a Sanremo, che domani verrà subirà un processo appunto in quel di Trieste, e però dedicato anche a le detenute e i detenuti del carcere del Coroneo, perché appunto ci sarà anche un presidio al carcere, e poi ci saranno anche ci sarà anche un'iniziativa benefit per Stecco e in generale insomma per i prigionieri. Allora iniziamo per ordine, l'udienza è a mezzogiorno, è al Tribunale di Trieste, quindi ci sarà una presenza solidale in aula, non sappiamo ancora se il compagno sarà presente in persona o in videoconferenza, ma comunque la presenza ci sarà in tutti i casi, perché è importante non lasciare da solo chi viene colpito dalla repressione, e assolutamente non abbiamo nessuna intenzione di lasciare da solo Stecco. E, appunto, quindi alle 12 presenza in aula, poi dalle 14, nonostante previsto un tempo micidiale, ma comunque non importa, dalle 14 circa inizierà il presidio sotto il carcere del Coroneo, anche per parlare della situazione carceraria in generale, e per parlare anche del pacchetto sicurezza, che appunto il famigerato pacchetto sicurezza che questo governo ha così scodellato, che vede anche un irrigidimento diciamo della repressione anche all'interno delle istituzioni totali carcerarie e anche all'interno dei CPR, oltre a tutta un'altra serie di così aggravamenti dei reati politici o comunque di reati legati diciamo a una rivolta generale verso le istituzioni. E poi parleremo anche di Palestina, di prigionieri e prigioniere palestinesi, e poi alla sera, diciamo dalle 18, in San Giacomo, da Bibitando e Magnando, ci sarà una cena benefit per Stecco e gli altri compagni e compagne, e poi anche un concerto, quindi insomma una giornata piuttosto intensa dal punto di vista delle iniziative. E niente, magari mettiamo ancora un pezzo musicale, e poi per così prima di salutarci, diciamo come presentazione di queste iniziative, vi leggiamo una lettera di Stecco dal carcere di Sanremo, che è una lettera insomma così che ci ha colpito, che a cui teniamo. Allora, 25 dicembre 2023, carcere di Sanremo. Questo scritto non è un comunicato. Qui non vi leggerete riflessioni sul mio arresto o riguardo a questa nuova esperienza carceraria o su altre questioni politiche. Esse arriveranno al momento opportuno, cioè quando riterrò sedimentate alcune faccende personali e alcune riflessioni che stanno maturando in questi primi mesi di detenzione. Questo umile scritto ha il semplice scopo, per me doveroso, di ringraziare, salutare e di portare solidarietà anche da dentro queste mura. Ho atteso un poco prima di decidermi nel metter giù queste mie parole, anche se la decisione di metterle su carta era già stata presa la sera del 4 dicembre, giorno dell'udienza al Tribunale d'Imperia, per il documento falso trovatomi addosso, il giorno in cui la mia esperienza di latitante è stata fermata da un gruppo operativo dei NOX. Quel giorno, al tribunale, mentre ero nel gabbione, l'avvocato mi ha annunciato della scomparsa di mia madre. Non è mio interesse raccontare questioni, diciamo, personali, bensì voglio raccontare, questo sì, della presenza dei compagni e compagne in aula, della loro vicinanza, della loro forza e dell'ennesima prova di solidarietà, ma anche dei compagni e compagne che al suo funerale hanno deposto dei fiori, facendomi così partecipe con questo gesto ad un momento importante della mia vita a cui per mia pregressa decisione avevo deciso di non partecipare. Questi gesti, assieme alla mole di parole di vicinanza che mi arrivano per lettera ad alcune azioni di solidarietà, è qualcosa di difficile descrizione riguardo a quello che provo. Sono fatti che mi riempiono di orgoglio e di determinazione. È una consapevolezza che mi accompagna da anni. L'esistenza della solidarietà tra compagni e compagne, tra sfruttati e sfruttate, esiste, è palpabile. Essa va al di là del singolo, della mia situazione specifica. Questa ha poca importanza davanti alle responsabilità nel continuare la lotta, davanti alle necessità storiche di innescare la rivoluzione sociale. Io sono solo un umile compagno che prova a mettere tutto quello che ha a disposizione per raggiungere i più alti fini di libertà e emancipazione per tutti e tutte. Per questo non sono abbattuto nel trovarmi in questo luogo, perché sono in mezzo agli ultimi, agli esclusi, a chi appartiene a questa classe sfruttata. In mezzo a loro, indipendentemente dalle differenze e contraddizioni, continuo a portare il mio contributo alla lotta, alla presa di coscienza. Lo Stato, un'altra volta, sta fallendo nel provare a spezzare la nostra solidarietà, i nostri legami politici, affettivi e amicali, e in primis quelli di affinità. Un'unione su cui non ho dubbi riguardo alla tenuta, nella sua consistenza e presenza, in cui ripongo tutta la mia fiducia e energie. Un'unione che so che tutti assieme terremo salda nel prossimo futuro, visto che siamo consapevoli che qui in Italia molti di noi finiranno nelle maglie repressive per conclusioni di vari processi. Anni che affronteremo con dignità, dove ognuno di noi sarà sostegno l'uno dell'altro, dove questo tempo non sarà vissuto passivamente, ma attivamente per continuare la nostra battaglia per i nostri ideali, per un'idea di giustizia e libertà, un'idea che si chiama anarchia. Tutte queste certezze ho percepito in aula. Tutte le nostre difficoltà, tutti gli ostacoli che abbiamo attorno in questa fase storica possono essere superati con la forza di volontà, nello studio, nell'unione. Purtroppo, 4 giorni dopo, ho saputo della scomparsa del compagno anarchico Alfredo Maria Bonanno. È stato un altro momento per confrontarmi con il dolore, perché assieme a tanti altri compagni e compagne abbiamo avuto modo di leggere le sue parole, confrontarsi con la sua personalità. Per alcuni, alcune, l'aver potuto agire assieme a lui nel corso della sua vita, dedicata alla lotta, a un ideale. un compagno verso il quale ho un senso di gratitudine per la mia formazione ideale politica. Mi ritengo fortunato di aver potuto, assieme ad altri, organizzare con lui i comizi anarchici nell'inverno 2021 a Trieste. Comizi in cui aveva voluto presenti dei grandi drappi neri, simbolo della nostra rivolta anarchica, drappi che oggi innalziamo per la sua dipartita. Ho fresche nella memoria le discussioni con lui prima di partire latitante davanti a un piatto di pasta in un'osteria e potermi stupire ancora della sua forza, determinazione e lucidità. Colgo questa occasione per portare il mio cordoglio alla sua famiglia, ai suoi affetti e ai compagni e compagne dell'edizione Anarchismo. Concludo dicendo che saluto con viva forza il coraggio e la determinazione dei compagni Francisco Solar e Monica Caballero che il 7 dicembre sono stati condannati dallo Stato cileno. Porto la mia vicinanza ai comuneri Mapuche della CAM, condannati recentemente dallo Stato cileno, e a quelli che nei prossimi mesi subiranno la repressione dei tribunali per la loro giusta resistenza. Saluto Gabriele, Tobias e Ilaria, arrestati dallo Stato ungherese. Buona fuga a chi si sta sottraendo dalla morsa delle manette. Così facendo dimostrano che le strade della libertà sono sempre aperte. Ringrazio i compagni e le compagne greci, sia per la loro dignità nell'affrontare la repressione, sia per tener viva la memoria rivoluzionaria, ma soprattutto per il loro continuo contributo analitico, utile a tutto il movimento rivoluzionario. Ringrazio i compagni bielorussi, nel loro trasmettere parole coraggiose dalle galere del regime di Lukashenko in questi anni di guerra. Solidarietà a tutti i disertori di ogni guerra e di ogni nazione. Mando forza al compagno francese Boris per un suo miglioramento di salute. Libertà immediata per i prigionieri Giannis Michailidis e Nikos Mazziotis in Grecia, a Marcelo Villarroel in Cile, a Claudio Lavazza in Francia. Auguro buona libertà e ritorno dei propri affetti dopo tanti anni di galera a Paula Rupa, Thomas Mayer Falk, Gabriel Pombo de Silva e a Davide De Logu, anche se ancora ristretto agli arresti domiciliari. Saluto Anna, Pozza, Nasci, Rupert, David, Zach, Saverio, Pasca, Stefano, Juan, rinchiusi assieme a me nelle patrie galere di questo Stato, a Sasha ristretta agli arresti domiciliari. Mi unisco a voi fuori con quello slogan che in tanti e tante avete urlato negli scorsi mesi, fuori Alfredo dal 41 bis. Un abbraccio particolare a lui, fuori tutti e tutte da quel regime detentivo. Per ultimo, con il dolore nel cuore, mando un saluto a pugno chiuso al compagno palestinese George Abdallah, contro cui ad aprile si terrà al Tribunale di Trieste un processo per la storia della sua resistenza al regime sionista di Israele, per una Palestina libera da stati, padroni e da qualsiasi autorità, sempre per l'anarchia e la rivoluzione sociale, libertà per tutti e tutte. Luca Dolce, detto Stecco. Do you ever feel alone in a crowded room? Ecco, e lascio in sottofondo questa band che abbiamo anche ascoltato in precedenza alcuni brani. E loro è una band statunitense dell'Oregon e sono i Bridge City Sinners. Questo è il loro ultimo album uscito nel 2021, comunque band che esiste da circa 5-8 anni, comunque ripeto, i Bridge City Sinners. You said that we never cried. Bene, allora, dato che mancano ormai pochi minuti alla fine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, programma che inizia alle ore 20 e si conclude alle ore 21:30. E oggi è, per chi dovesse riascoltarci, e comunque adesso dirò perché qualcuno potrebbe riascoltarci, e oggi è giovedì 18 gennaio 2024, e ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste, e che appunto chi volesse scriverci e insomma mettersi in contatto con noi può farlo tranquillamente scrivendo tramite insomma la mail, posta elettronica, scrivendo a liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure può farlo in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo nuovamente anche questo: Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre, appunto, la trasmissione odierna può riascoltarla, ma anche tutte quelle dei giovedì, diciamo, già trascorsi, andando sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, quindi questo è tutto, salutiamo ovviamente dandovi l'appuntamento al prossimo giovedì, salutiamo chi ci ascolta domani in replica sulla web radio dalle ore 17 Radiazione, e appunto vi lascio con credo un ultimo brano ormai di questa band che ho già presentato, Bridge City Sinners, band statunitense di Portland nello stato dell'Oregon, album del 2021 che si chiama Unholy Hymns. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì. What the hell was I thinking when I picked up that bottle?